Io non me la sento di fare i nomi. Io anche mi hanno scritto sul giornale, mi hanno però io non se la sento, vabbè, io non se la solo sento. Posso dire, sì, ecco, quello lo posso dire, me lo dica, che mi avrebbero cambiato la vita in meglio. Beh, vabbè, questo in meglio, in meglio, d'accordo. Però io voglio dire, al di là del, dunque, abbiamo detto il seggio sicuro, giusto? Seggio sicuro, seggio sicuro le hanno offerto. Praticamente l'estinzione del mutuo di 150.000 euro. Poi che altro? Basta, direi che è abbastanza. Anche cariche non semplice parlamentare. Presidente del CNEL? No. No. Qualche carica, qualche altra carica. Senta, Razzi, però lei ha detto 5-6 persone, no? Di queste 5-6, quanti del PDL? Questo almeno ce lo può dire. Quanti del PDL? Tre. E invece qualcuno del PD? Due della Lega. Gli altri due di chi sono? Uno del PD. Uno del PD. Lasciamo che... No, lei è Repubblica. Lasciamo il sospetto, non lasciamo il sospetto, è brutto. Lasciamo il sospetto, è brutto. Io, vedi che io già glielo avevo detto, che sono quasi tutti i partiti. Beh, quasi tutti, no, 5-6, non è che sono quasi tutti. Meno che il partito dell'Italia dei Valori, gli altri... Vabbè, quello lei già c'è nell'Italia dei Valori. Ma gli altri hanno offerto meno, offrivano meno gli altri? No, ma era anche le stesse condizioni. Ma pure il mutuo pagavano, pure uno del Partito Democratico che paga il mutuo. Non è possibile, non ci credo, ragazzi. No, dico no, non il mutuo, ma le stesse condizioni di elezione sicura. Ah, le elezioni sicure. Cioè. Comunque c'era qualcuno che offriva di più, questo ce lo può dire? Le migliori offerte l'ho avuto dall'altro lato. Dall'altro lato al suo, cioè dal PDL? L'ha detto lei. Beh, questo lo può dire. Le migliori offerte l'ho avuto dal PDL, questo me lo può dire, sì. Sì, quello sì, le migliori offerte sono venute da loro, che mi avrebbero cambiato la vita in meglio, però non mi avrebbero cambiato la faccia.